Pronto? Francesco Merlo, sono io, Roberta Giordano. Oh, Roberta, ciao. Ciao, senti, allora sabato mi confermi e non ci sono più le mezze stagioni? Non ci sono problemi, era alle 14. Va bene, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, preparati. Certo. Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a te. Bene, allora Francesco Merlo di Repubblica mi ha appena confermato che ci sarà, non ci sono più le mezze stagioni. Con me Roberta Giordano e con voi naturalmente, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.